This standing meditation takes about 10 to 15 minutes. Per questa meditazione in piedi ci vogliono 10-15 minuti. If you begin to feel dizzy, you can just sit down and do it. Se vi sentite dizzy. Sorry. I feel dizzy. Ah, se vi sentite girare la testa potete anche mettervi seduti. Mm, sì. So make sure you feel balanced. Cercate di sentirvi bilanciati. Lift up gently through the top of the head. Tirate su gentilmente la sommità della testa. And bring your attention now down the body. E portate la vostra attenzione giù per il corpo. Relaxing the brow, the forehead. Rilassate questa parte sopracciglia e la fronte. Eyes looking downwards. Gli occhi guardano in basso. The jaw relaxed. La mascella si rilassa. If there's tension there, you can move it around a little. Se c'è tensione, potete muoverla, girarla, muoverla un po'. The shoulders. Le spalle. If there's tension there, give them a squeeze. Se c'è tensione, muovetele un po'. So here we have the body is balanced. Ecco che il corpo è bilanciato. Energy running up the spine to the top of the head. L'energia scorre lungo la spina dorsale fino alla sommità della testa. And everything else relaxed. E tutto il resto è rilassato. Draw your attention now to the soles of your feet. Portate ora l'attenzione alle piante dei piedi. What can you feel there? Che cosa potete sentire lì? Can you distinguish two types of feelings? Potete distinguere due tipi di sensazione? Can you isolate the sense of pressure? Un senso di pressione? Another of warmth or coolness. Un altro di calore o di freschezza. The subtle sensations that tell you what you're standing on. La sensazione sottile che vi dice su che cosa siete in piedi. Su cosa state appoggiando i piedi. Areas that are neutral. Neutral feelings. Ha una sensazione neutra. Acknowledge how the sensations are continuously changing as the body rebalances itself. E riconoscete come le sensazioni cambiano continuamente mentre il corpo si ribilancia, ritrova il suo equilibrio. And acknowledge that these sensations arise whether you want them to or not. E riconoscete che queste sensazioni insorgono sia che lo vogliate che no. So take your time, come up the body and see what sensations you can feel. Poi prendetevi il tempo che vi serve e salite lungo il corpo e capite quali sensazioni potete sentire. Inside the body, on the surface of the body. Dentro il corpo, sulla superficie del corpo. When you get to the abdomen, can you feel the breath there? Quando arrivate all'addome, potete sentire lì il respiro? Is there any tension in that area? C'è forse qualche tensione in quell'area? Do you feel the breath more around the stomach? Il respiro lo sentite più in verso la zona dello stomaco? Is there any tension there? C'è qualche tensione lì? Do you feel the breath more in the chest? Sentite il respiro più nel torace? Is there any tension around there? C'è qualche tensione lì? Shoulders still relaxed? Le spalle sono rilassate. The jaw. La mandibola. Lips together, teeth apart. Le labbra chiuse, ma i denti separati. When you get to the top of the head, see what feelings are there. Quando arrivate alla sommità della testa, vedete quali sensazioni ci sono lì. Without moving the eyes, become aware of what is outside you. Senza muovere gli occhi, diventate consapevoli di ciò che c'è intorno a voi. Any sounds? Suoni. Any colors and shapes in front of you? Colori e forme davanti a voi. The presence of other people. La presenza delle altre persone. The atmosphere of the room. L'atmosfera della stanza. So your attention now is completely out there. Ora la vostra attenzione è completamente là fuori. Now at the same time become aware of what's inside the body. E ora allo stesso tempo diventate consapevoli di ciò che succede dentro il corpo. The breath, the heartbeat, sensations. Il respiro, il battito del cuore, sensazioni. Both inside and outside. Sia dentro che fuori. So this is the bubble of our consciousness. Questa è la bolla della nostra coscienza. This is the world we're creating. È il mondo che stiamo creando. This is the world we live in. È il mondo in cui viviamo. This is our universe. Il nostro universo. And we're always at the center of it. E noi siamo sempre al centro di esso. So we may as well relax. E rilassiamoci. Relaxing into this moment, wide awake. Rilassiamoci in questo momento completamente svegli. Relaxing. Rilassiamoci. Into this present moment, wide awake. Nel momento presente, completamente svegli. In this mode, just being, there's no reason, there's no attaining of anything. We don't have to achieve anything. In questo modo, solamente standoci dentro, noi non dobbiamo ottenere niente, non dobbiamo realizzare nulla. There's no reason for being. For? Being, essere. Ah, non c'è ragione di essere. Being just is. Essere solamente così. Relaxing, abiding in the present moment, wide awake. Rilassiamoci e dimoriamo nel momento presente completamente svegli. In this mode, just being, there's no future. In questa modalità, solo essendo, non c'è futuro. There's only this ever-present moment. C'è sempre questo momento, sempre presente. So there's no need to plan. E quindi non c'è bisogno di fare piani. We're never going anywhere. Di andare da nessuna parte. We're always arriving. Noi stiamo sempre arrivando. Relaxing. Rilassiamoci. Abiding in the present moment, wide awake. Dimorando nel momento presente, completamente svegli. In this mode, just being, we're not responding, we're not reacting. In questa modalità, solo essendo, non stiamo rispondendo e non stiamo reagendo. In which case we don't have to present somebody. We don't have to be somebody. Non dobbiamo essere nessuno. Qualcuno. Non dobbiamo essere qualcuno. We don't have to be a personality. Non dobbiamo essere una persona, una personalità. We can be anonymous. Loneliness? Anonymous. Anonymous. Ah, possiamo essere anonimi. Relaxing, abiding in the present moment, wide awake. Rilassiamoci, dimorando nel momento presente, completamente svegli. Achieving nothing. Ottenendo niente. Going nowhere. Andando da nessuna parte. Being nobody. Essendo nessuno. In this mode we're developing 5 of the 7 factors that lead to liberation. In questa modalità noi sviluppiamo 5 dei 7 fattori che portano alla liberazione. There's the awareness. C'è la consapevolezza. There's the steadiness of attention, concentration. C'è la stabilità dell'attenzione, della concentrazione. And the effort needed to maintain just that. E l'impegno che serve a mantenerla. Sense of calmness. Un senso di calma. And a very important quality of equanimity. E la qualità molto importante dell'equanimità. Equanimity means the balanced mind, the balanced heart. Equanimità significa cuore e la mente bilanciati, in equilibrio. Not coming from a place of I know. Non senza venire da un posto dove si dice io so. But more open-minded. Ma con la mente più aperta. No prejudice. Senza pregiudizi. No fear. Senza paura. No anger. Rabbia. No choice. Senza scegliere. No preference. Senza preferenze. Very open-hearted. Col cuore molto aperto. Open-minded, open-hearted. La mente ed il cuore molto aperti. When this is established, we then bring in a sense of curiosity. Quando tutto questo è stabilizzato, allora ci portiamo dentro un senso di curiosità. And our investigation is into the 3 characteristics of existence. E questa è la nostra investigazione sulle 3 caratteristiche dell'esistenza. Everything is impermanent. Tutto è impermanente. If we have a wrong relationship with the world, we will suffer. Se noi abbiamo una relazione sbagliata col mondo, noi soffriremo. And we're searching to see if there's anything which is a stable sense of self. Noi cerchiamo se c'è qualcosa che è uno stabile senso del sé. But this mode is very important in ordinary daily life. Questa modalità è molto importante nella vita di tutti i giorni. Just to be able to stop like this. Essere capaci di fermarsi così. After a job, after a phone call, after a conversation. Dopo il lavoro, dopo una telefonata, dopo una conversazione. And just to see what mental state we've developed. E solamente guardare quali stati mentali abbiamo sviluppato. Some anxiety, some irritation, some excitement. Quindi un po' di ansia, un po' di irritazione, un po' di eccitazione. Just to wait for everything to calm down. E aspettiamo che tutto si calmi. And then we can see the next intention very clearly. Allora possiamo vedere l'intenzione successiva in modo molto chiaro. If the intention is not wholesome, we can just remain still until that desire dies away. Se questa intenzione non è sana, possiamo star fermi fino a che questo desiderio se ne va. And if it is wholesome, we can empower the desire. Se invece è sana, allora possiamo dar potere a questo desiderio. just in this very simple way, we can change ourselves entirely, completely. Just in this simple way, we can change ourselves. Ah, in questo semplice modo, noi possiamo cambiarci interamente e completamente. But we have to have this level of awakeness. Ma dobbiamo avere questo livello di risveglio, di sì, awakeness, awareness, di consapevolezza. Our next intention is to sit. So now take your time. La nostra prossima intenzione è quella di sedersi. Allora prendiamoci il tempo. Our technique is to do things very slowly. Questa tecnica è di fare le cose molto lentamente. So we can see how many actions it takes just to get this body into a sitting posture. E quindi vediamo quante azioni servono solo per mettere questo corpo in posizione seduta. And we use very simple words to keep the mind occupied. E usiamo delle semplici parole per tenere la mente occupata. Pushing, pulling, spingere, tirare. Ah. Noting the intention. Notare l'intenzione. Intending to sit. Intenzione di sedere.